se lo faccio ci riesco. Trova un altro che lo fa come me. Dormo la mattina presto quando gli altri escono a correre. Scusami, mandi zombelie, 5 blunt a diffondere. Chiedo che cazzo vogliono, ma poi non li faccio rispondere. Che ci credono davvero quando mi dicono che uccido il rap. Tra chi fa le pubblicità per fare gli extra, per me questi come se ci avessero la lepra. Sembra che se fai la roba vada bene, certi non ti stanno dietro, allora non ti danno retta. Ma prima stavo in cameretta, adesso sto sulla vetta. Sbacco il banchi d'Italia mentre tu resta a casetta. Adesso canto anche se sono tornato, ma tanto c'ho tante sorprese dentro la mia scatola. Grosse cime al sapore di fragola. Così mangio la frutta che quando non sono a tavola. Massimo, un'altra volta dico che siamo molesti, bro. Che cazzo pensi, oh? Racconterei qualcos'altro se lo facessimo. Quiero fare all'entrata del locale. Mi butta fuori, preso male. Restiamo fuori a regolare. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Non ho mai regalato nessuna un cazzo di mazzo di fiori. Ma arrivo con il cazzo di fuori, me lo sucano come un yakitori. Oh, non ho vaiatro, paura un po' scura, mezza porno star come Kaiden. Si scopa dei rapper famosi e dei calciatori del Bayern. Costerebbe un millino, ma giuro che mia mamma mi chiama, poi mi chiama gratis. Ho bicis in ogni città, in ogni regione, pure in altri stati. Da quanto mi ricordo, fin da quando ero piccolo volevo sempre essere un pimp. Fare il grano tipo Sims alla Bim, posti a bordo ring, scambista alla bingo. Non me ne frega un cazzo di essere il king di YouTube come sti altri bambini. Sto pubblico pacco si scorda di tutto, siccome con l'HGB della Fashion Week. Non me ne frega un cazzo dell'hip hop italì. Non me ne frega un cazzo, non sentivo uno scarso. Come te sembri fermo nel 94, se deve esserci un babbo come te che fa rap, io prendo il soldi e scappo in un giro di Rolex, bro, sono già altrove. Sto Nylon che cambia colore, ciccia, cremo sti rapper, gli pippo le ceneri come Keith Richards. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Questi qua ce l'hanno con me, so che ce l'hanno con me. Ma non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, non me ne